su info, salute e società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Cristina Greggio, sono una socia del club Sor Optimist di Treviso e sono anche la presidente nazionale del comitato Consulte e Pari Opportunità. Per chi non conosce il Sor Optimist, è un'organizzazione internazionale di donne impegnate nelle diverse professioni e quindi rappresentiamo anche competenze diverse. È nato in California nel 1921. Il club di Treviso fa parte dell'Unione Italiana e qui a Treviso siamo nate nel 1961, abbiamo quindi nella nostra comunità 55 anni di storia. Il club di Treviso con le sue socie ha ideato questo service, perché noi lavoriamo attraverso i service, dedicato alla sanità. Nelle nostre finalità ci sono i diritti umani, le pari opportunità e un'attenzione alla condizione femminile, per cui il nostro sguardo in questa nuova rubrica è ovviamente con uno sguardo attento alle tematiche delle donne, delle bambine e dei bambini. È un service dedicato alla comunicazione nella consapevolezza che la comunicazione, una buona comunicazione, è un modo per educare anche chi ascolta e poi a sua volta diventa un buon cittadino, perché sicuramente in questo modo possiamo anche prevenire delle situazioni di difficoltà. È una prima fase del progetto previsto per 4 mesi, una partnership per cui ringraziamo il dottor Francesco Benazzi e l'azienda sanitaria per questa collaborazione, nella quale Sor Optimist cura la parte editoriale. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULS 9 di Treviso. Io devo ringraziare Sor Optimist per questa opportunità che viene data all'ULS 9 di poter far conoscere a tutte le persone cosa fa questa azienda per la donna, per il genere femminile e per la cura che i nostri professionisti hanno per un percorso che la donna fa, dal percorso ovviamente dal parto fino al percorso nascita e alle patologie che possono interessare, ecco, il genere femminile. L'opportunità viene data dei nostri specialisti che parleranno su temi importanti che riguardano la donna e quindi io da direttore generale dell'ULS non posso altro che ringraziare veramente ancora una volta i Sor Optimist per questa grande opportunità che ci viene data. Grazie dottor Benazzi per questa splendida opportunità che noi abbiamo colto con grande piacere. Sono Stefania Barbieri, sono il past president del Sor Optimist Club di Treviso e credo che questa sarà una grande opportunità anche per voi che ci ascoltate, perché credo che parlare di questi temi così importanti non sia proprio così frequente. I temi che affronteremo insieme al dottor Benazzi e alla nostra azienda ULS sono la maternità, la medicina d'urgenza, bambine e bambini e la menopausa. A questi temi parteciperanno grandissimi professionisti dell'azienda ULS e ringrazio anche loro per questa grandissima disponibilità e credo che saranno veramente una grande fonte di formazione e di informazione, quindi vi invito ad ascoltare le nostre prossime puntate. Domani inizieremo con la maternità e per qualsiasi comunicazione vi invito a scrivere a info@bluradioveneto.it. Eh sì, bella cosa, domani altra puntata. Salute e società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.